anche i nostri ospiti, Nico Menna, che è l'autore di questo libro, una raccolta di pensieri, anche di poesie, di brevissimi componimenti poetici, ma molto incisivi ed intensi. E buonasera anche a Italo Ghirigato, che è qui con noi, farà da moderatore per questa serata. Lo conoscete, il presidente dell'Associazione Scrittori di Bolzano, una realtà molto vivace e attiva. C'è qui anche il suo ex presidente, il professor Vito Mastrolia, che saluto. E ecco, siamo contenti come biblioteca di partecipare e di poter collaborare anche con le associazioni del territorio, che sono un sintomo di vivacità, no? Che la nostra comunità è attiva, è vivace e ha anche dei talenti da coltivare, tra cui appunto questa sera scopriremo più da vicino e conosceremo meglio Nico Menna, che compone, scrive, pensa e si emoziona in maniera bilingue, ecco. Quindi anche questo è un valore aggiunto che volevo sottolineare e che mi fa molto piacere, perché ci apre anche delle prospettive, un modo di esprimerci e di entrare in contatto anche con altre realtà e tante persone. Bene, non mi dilungo, vi racconto solamente quello che accadrà la prossima settimana. Il 3 di maggio abbiamo presso la biblioteca, nella sala sotto al piano terra, un incontro per BiblioWeb con le novità della biblioteca digitale. Chi avesse piacere può venire, è gratuito chiaramente, è un breve corso e verrà tenuto da Fabio Ferrarese. Se avete bisogno di informazioni basta che passate a trovarci oppure telefonate allo 0471 2644 44, che trovate anche sulle cartoline, per imparare oppure sapere cosa c'è di nuovo per quanto riguarda la biblioteca digitale. Invece l'8 maggio, quindi lunedì successivo, ci sarà l'incontro di Musica e Donna, le compositrici dimenticate, con la professoressa Cinzia Butelli, mezzo soprano, con Cristian Contarino al pianoforte e Loredana Merlin, anch'ella come soprano. Sarà una conferenza musicata, cantata, sulle compositrici donne dimenticate, quindi un aspetto storico, ma diciamo anche animato dalla musica e dal canto. Grazie e buona serata a tutti voi. Grazie a voi. Grazie Valeria, grazie alla biblioteca che ci dà sempre questa bella opportunità di presentare i nostri soci, le nostre socie. E questa sera con noi abbiamo Nico Menna. Buonasera. Allora, la maggior parte, almeno insomma, tante persone, tanti giovani, sappiamo per esempio che se ne vanno dall'Alto Adige, perché pensano che insomma, l'Alto Adige non offra loro molte opportunità di lavoro, di arte, di scrittura, eccetera, eccetera. Invece Nico Menna è arrivato qua. E si è stabilito qua, perché è da 22 anni che è qui in Alto Adige, viene dall'Abruzzo, una bellissima regione, e viene a insegnare nelle scuole italiano, nelle scuole tedesche, e viene già con un patrimonio linguistico, nel senso che lui è perfettamente bilingue. Anche un'altra lezione da dare ai nostri coetanei. Sappiamo che tante persone sono qua da una vita e sanno ben poco anche di tedesco. Invece lui viene qua già col patentino A in tasca, no? Come si dice anche da noi. Nico Menna ha alle spalle un dottorato di filologia e linguistica e quindi, insomma, è uno che sa valutare il peso delle parole, la costruzione sintattica delle frasi, eccetera. E poi discuteremo anche un po' su questo. Ed è un ricercatore, tant'è che recentemente ha anche ricevuto un incarico di fare una ricerca su Zoderer, quindi in lingua tedesca a Innsbruck. fa il pendolare non solo dall'Abruzzo all'Alto Adige, in varie parti dell'Alto Adige, perché abita a Campo di Trense e insegna attualmente a Bressanone, dopo essere stato a Silandro, a Vipiteno, eccetera, quindi insomma conosce bene la nostra terra, ma anche con Vienna, come vedremo, a cui è molto legato, a quanto pare, da un particolare rapporto. Allora, la prima domanda, cosa ti ha portato qui? Non dirmi che è solo stato un concorso. No, innanzitutto grazie Italo per questa opportunità e grazie a tutti voi di essere intervenuti, buonasera. Sì, io mi chiamo Nico Menna, sono abruzzese, sono qui da 22 anni. Veramente è stata tutta colpa, tra virgolette, di mia madre, perché lei, dopo che mi laureai e finì il dottorato, mi disse: ma se proprio ti piace questo tedesco, vai in Alto Adige, così sei ancora dentro lo stivale, prova un anno, vedi se ti piace, è una terra particolare, si parla tedesco, se non ti piace riscappi giù. Ma quell'anno poi, come diceva prima Italo, ne sono passati 22. Perché di questa terra mi piaceva questo fatto, ecco, sì, di poter parlare il tedesco tutti i giorni, ma anche di mischiare le culture, la cucina, le tradizioni, e questo era un continuum, non era quotidianità. E quindi cercavo una risposta, cercavo una nuova identità in questa Mischung. Però dopo 22 anni devo dire che continuo a sguazzare, se posso usare questo termine, ancora in queste due culture, in queste due lingue, in questi due mondi. Non so ancora bene dove collocarmi, ma mi piace anche questo, che non c'è una collocazione precisa. Bene, allora passiamo al libro. Sì. Il libro è un libro davvero molto particolare. C'è della narrativa, perché i pensieri che sono espressi sono a volte costruiti con una tecnica narrativa, a volte sono dei saggi, piccoli saggi, quindi è un po' narrativa, un po' saggistica, si può dire. È un insieme di pensieri, di descrizioni di emozioni, di momenti, di scene, di vita vissuta da parte tua, pensieri sparsi, come abbiamo scritto, ma non persi, nel senso che ogni pensiero è carico di significati. E tu, tra l'altro, hai proprio diviso il libro in due parti. Nella prima parte parli di disseminata, che non ho capito cosa vuol dire. Immagino, mi riferisco ai semi sparsi, sì, sul terreno. Sono... E dall'altra invece sono istantanee. Certo. E che certo. Differenza fa tra le due? Allora, partiamo dalle istantanee. Le istantanee sono paesaggi mentali. Anche se spesso mi dicono: ma dove sono le fotografie nel libro? Perché il titolo rimanda appunto a una foto, ma le foto non ci sono, sono foto, sì, paesaggi mentali, fotografie. Foto del cuore, sì, possiamo anche della dire. Della mente e del cuore. E sono più della lunghe. Della pancia anche. Sì, perché sono scritte spesso di getto. Invece le disseminata sono delle briciole, dei pensieri, una parola che rimanda, diciamo, a un macrocosmo di significati. Chiamo le briciole, insomma. Sì, perché sono proprio, come hai scritto pure tu, una frase può sintetizzare quello che una situazione, un incontro, un momento, un'alba, un tramonto. In tedesco, forse la parola tedesca rende di più Gedankensplitter, dove splitta sta proprio per questo, questa frantumazione dell'idea, del pensiero. Ecco, disseminata magari è da rivedere un po' la traduzione italiana, anche se diciamo, non è stata facile trovarla. Allora, all'inizio, proprio nell'introduzione, scrivi: un album di emozioni vissute come lampi accesi nel cielo, di momenti intensi, inaspettati, di ossessioni inseguite senza possibilità di guarigione, di pensieri nati da una telefonata o da una chiacchierata in una stanza virtuale, di riflessioni concepite inseguendo a piedi l'inafferrabile, interrogandosi sul senso dell'esistenza nel vagone di un treno alla cupa luce dell'alba, sotto il platano di un parco immenso, sorseggiando un cappuccino in un caffè viennese, immobilizzato nel tempo e fissando un cimitero cronicamente chiaro, un album di ricordi indelebili. Allora, emozioni, amicizia, amore, il senso della vita. Io partirei leggendo alcune cose che secondo me sono molto poetiche. Come aveva detto anche Valeria prima, si scopre veramente una vena poetica molto intensa e anche piacevole. Hotel Yarolim o Jarolim? Yarolim. A volte la vita, nella sua spietatezza, è così clemente da far lacrimare solo il cielo, lasciandoti gli occhi asciutti per guardare attraverso il vetro gli ombrelli sulla strada mentre danzano il valzer. Ponte Kennedy. Ponte Kennedy a Vienna? Sì, a Vienna. Di sera. Ci sono luoghi che mai vorrei lasciare, né disponendo di due ali né di un treno in corsa, affinché i miei occhi possano seguire indisturbati il corso delle acque che li attraversano. E un altro. Lacrime sotto il cielo che ride. Lacrime sotto il cielo che ride. Vienna, deserta, silenziosa, corteggiata dal sole di primavera. Madre in lacrime, figlio in lacrime, ignoto a me il perché. Cari saluti, dice la madre uscendo dal caffè, tra le mani un nuovo verde di cioccolato. Auguri, risponde il figlio, affaccendato in cucina. Varcando la soglia della porta, la donna si volta, mi fissa, indugiando lentamente, svanisce. Ciò fotografarono i miei occhi davanti al connubio di caffè latte ricoperto di cacao. Qualcosa è nell'aria, cantava l'artista che vide la luce del mondo tra le mura affrante della casa, il giorno prima della festa. Allora, ti senti anche un po' poeta? Ma, poeta è una parola grossa, diciamo. Ops. Ecco, mi sento poeta, come dicevo prima, è una parola grossa. Io osservo e cerco di trasmettere, incidere sulla carta ciò che sento, ciò che osservo. Vorrei sapere, ne hai lette tre, tu che cosa hai colto? Se prendiamo l'ultima, per esempio, che si riferisce alla vigilia di Pasqua, una vigilia di Pasqua a Vienna, dove questa madre abbandonava questo locale in lacrime perché per lei non era una festa. Ho pensato qualche dramma familiare, quindi non poteva condividere questo figlio il giorno della festa, e mi ha impressionato molto osservarli anche perché lui era freddo, impassibile, continuava a fare le sue cose, stava farcendo dei panini, lei invece si vedeva che avrebbe voluto una spiegazione, magari anche una lite, essere offesa, magari picchiata pure dentro quel locale, però invece lui un muro, ecco. Infatti poi il caffè latte diventò ghiaccio, perché non riuscì a berlo, distratto, ecco, da questi due che in pratica comunicavano senza comunicare. Adesso dire se mi sento un poeta, sinceramente non me la sento di rispondere, mi sembra troppo. Però io trovo veramente tanta poesia nelle tue frasi, indubbiamente. Una poesia un po' velata da una certa tristezza anche, no? Nel senso però un po' come si diceva dei teologi protestanti, il dolore divino. Cioè avere, provare un lutto, per così dire, positivo, derivante dall'ammettere le proprie carenze spirituali. È una sorta di allenamento emotivo, una lezione di resistenza, anche si può dire. E qui ci sono appunto alcuni testi che sono proprio legati a questa profondità del pensiero sulla vita. Per esempio, appunto, il senso della vita è uno di questi, di questi brani. La vita, una strega d'autunno che ammaglia, sa illuderti nella stanza di un momento fino al compimento di ogni suo diabolico piano, nella sua delusione. Sì, sicuramente un'immagine negativa che si riferisce questa, penso a... C'è la data? La data 6 novembre. 6 novembre. Ore 6:35. Del anno? 2018. Sì, 2018. Istantanee è una raccolta di pensieri che poi stava diventando troppo voluminosa e quindi ho detto adesso cosa ci faccio con tutti questi appunti? Li cancello, li elimini oppure gli do seguito? E raccolsi in un raccoglitore, questo raccoglitore poi lo mandai a una piccola casa editrice svizzera e loro dopo un mese mi dissero se volevo dare seguito a queste, a questo progetto, ecco, che io menzionavo. Ne erano però tantissime e quindi mi dissero di fare una selezione. Io feci una selezione un po' fortuita, e tra cui questa che si riferisce a un momento particolare della mia vita. C'è un lutto dentro che forse io allora non avevo ancora metabolizzato. Oggi se la rileggo non so se la riscriverei così oppure se cambierei qualcosa, toglierei magari qualche termine, qualche lemma più forte per mettere uno meno forte. Diciamo, è un momento della vita, questo Sinn des Lebens. Allora, diversi sono i temi che tu tocchi, no? Intanto bisogna dire che è un libro con, a volte, come si vede, se si riesce a vedere, è un libro che ha molto spazio. Quindi a volte ci sono, c'è una semplice frase, per esempio, in una pagina. Una disseminata. Anche qua, per esempio, come vedete, sono due righe in una pagina, eccetera. No? Quindi da una parte è un libro leggero, uno lo prende in mano, oh, meno male, no? Non ho un mattone davanti, insomma. D'altra parte, però, a volte magari si legge una frase ed è una frase densa, molto densa, insomma. Quello che dicevi prima. Uno psicologo viennese mi disse: Dein Buch ist keine Bettlektüre. Dein Buch ist kein... keine Bettlektüre. Ah. Oder keine Strandlektüre. No, che non si può leggere in spiaggia, al mare. Allora, prendiamo alcuni temi, per esempio, il tema della natura. Pagina 33, Caffè Weidinger. Il grande castagno nel giardino accoglie tutto su di sé. Suoni, voci, rumori. Le sirene spiegate lungo la Lerchenfelder Gürtel. Il soffio del viennese sulla città. Il cameriere offeso per non avergli teso la mancia. Le risate istericamente amplificate dalle due fumatrici dietro di me. Di cose siffatte si nutre il grande castagno nel giardino del caffè, deridendole a vita. Sì, due cose. Innanzitutto, questa istantanea è nata in tedesco e poi è stata tradotta in italiana, in italiano, in lingua italiana. Invece il libro è così strutturato, i testi figurano prima in italiano e poi in tedesco, soltanto che io qui scrivo in italiano, poi a Vienna scrivo spontaneamente, direttamente in tedesco, e come torno in Sudtirolo traduco quello che ho scritto in tedesco a Vienna. Questa istantanea è nata in tedesco e poi è stata tradotta in italiano. E questo castagno bellissimo, enorme, un castagno mammut che era proprio nel giardino di questo caffè, dentro la città, ma come se fosse fuori, perché completamente separato dal resto, ha 500 anni, lo so perché l'ho chiesto al cameriere, e mi sono chiesto chissà quante storie, quante cose ha visto questo castagno, quante cose ha ascoltato, e quindi deridendole a vita, perché magari ha visto e assistito, diciamo, i suoi occhi sono testimoni di qualsiasi cosa, anche delle cose più, ecco, insignificanti, magari ero anche io insignificante lì che sedevo, lo guardavo e lui mi derideva. Quindi che rapporto hai tu con la natura? Perché a volte la leggo che ti ispira, a volte ti ispira positivamente, a volte ti ispira negativamente, ti fa sorgere sentimenti un po'... Sì, molto scettici. Ecco, da un lato il parco, a me piacciono molto i parchi. In un parco io posso rilassarmi, posso ispirarmi, posso stare seduto senza, in maniera petrarchesca, cioè senza fare niente, oziando, e questo mi rigenera, soltanto il fatto di oziare. Dall'altro i parchi, la natura, il canto degli uccelli, il colore dei fiori, la loro luminosità può anche amplificare una ferita, un trauma, un lutto non elaborato. Mm-hmm. Dipende. Mm-hmm. Leggo Metamorfosi, 8 luglio, pagina 56, 8 luglio 2019, 21:48, perché in ogni scritto c'è proprio la data e anche l'ora in cui è stato scritto. Quindi Metamorfosi. Il rododendro di maggio a luglio si fece ortensia. Il platano posava pallido e ingiallito. Cinico fiero il corvo mirava la soprana del parco. Lontano i ritocchi delle campane annunciavano lagrimanti l'arrivo della sera. Le nuvole riempirono il cielo intrecciandosi come sculture di zucchero filato. Infradiciati, i visitatori fuggirono. La discesa isterica della pioggia era appena iniziata. Sì, allora rispondo a un'osservazione. Il fatto di voler cementare proprio con la data, l'ora, ogni testo, non lo so perché avevo questo bisogno di dire sì, è successo in questo giorno, a quest'ora, appunto proprio come le fotografie, le istantanee che dettagliano ogni momento. Quindi anch'io ricorrevo alla data, all'ora, per cementare questo momento. Ricorrevi? Ricorrevo io? Sì, non lo fai più? No, perché adesso non sto scrivendo più istantanei in questo momento. Non appena ti saprò dire, non so se poi rifarò quello che ho fatto, diciamo, anche se c'è ancora una parte voluminosa di istantanee che sono rimaste non pubblicate proprio perché ho dovuto fare quella selezione. In fondo è una specie di diario, no? Una specie di diario di emozioni, di sensazioni, di pensieri. E quindi si vede anche una tua evoluzione. Sì, ecco, a questo l'avevo già messo in conto. Io adesso chiedo scusa, rileggendo alcune istantanee, dico, ma chissà, le guardo, le rileggo un po' scettico, non so se le riscriverei così. Ecco. Proviamo a fare qualche esempio, non so, per esempio sull'amicizia. Sì. Ecco. Qui ci sono alcuni brani che riguardano l'amicizia, l'amore, l'invidia, quindi emozioni, sentimenti forti. Ce n'è uno, i vincoli dell'amicizia, a pagina 22. Da un giorno all'altro un'amicizia può finire nel ghiaccio. Per anni l'amicizia può tacere perché è sommersa dal ghiaccio. Da un giorno all'altro quell'amicizia può riemergere dal ghiaccio e riprendere con la stessa intensità con cui è sopravvissuta per anni nel ghiaccio. Sì, io qui volevo sottolineare un'amicizia ripresa dopo 18 anni, così, in maniera molto casuale, una sera con una telefonata, e questo reiterarmi è un po' anche questo delirare in questa istantanea, no, questa è una disseminata perché è troppo breve, volevo sottolineare proprio questo, la contentezza di aver recuperato questa amicizia, infatti ricorre in ogni riga. C'è sono due righe molto forti riguardo l'invidia. Il cancro lo puoi prevenire, l'invidia non la puoi curare. Sì, sentito dei feedback, dei riscontri dalla sala. L'invidia ti ha colpito diverse volte? L'invidia? Allora, colpito no, però mi sembra di sentirla, ma penso che tutti la sentiamo, l'invidia. Dipende da quello che facciamo, da come ci comportiamo. L'invidia si trasmette con uno sguardo, con un atteggiamento, non deve essere sempre verbalizzata o palesata. Molto simile a una, proprio la settimana scorsa, passeggiando per la Neustiftkasse di Vienna, ho letto su una parete, su un edificio, una citazione di un cabarettista dei primi del Novecento, Karl Farkasch, che diceva proprio questo, e leggendo lui ho pensato a questa disseminata: la lode te la puoi comprare nella vita, l'invidia te la devi guadagnare. Ecco, e mi sono ricordato proprio di queste parole. Veniamo all'amore, mi viene da dire alla poesia, ma sbaglio ovviamente. Primo appuntamento d'amore, a pagina 71. Il giorno in cui sarò indistruttibilmente convinto di essermi innamorato, volerò fino a Vienna per sedermi al tavolino 1A de La vita è bella. Il tavolo lo prenoterò dall'Italia e poco prima di cenare accompagnerò l'altra metà del mio cuore a lavarsi le mani nella consunta toilette rossa. Perfetta location d'amore. Sì, questo è un locale nel 20° distretto di Vienna, ma un locale veramente quasi fatiscente. Si entra dentro, c'è scritto in caratteri cubitali, la vita è bella. Però sedie consunte, tavoli consunti. Perché la vita si è vissuta, evidentemente. Infatti. E mi ha così colpito. Poi c'era questo tavolino attaccato a una parete, proprio piccolissimo, anche le sedie molto anguste, ho detto, con un fiore giallo posato in mezzo. Ho detto, mamma, che bello, io voglio sempre questo tavolino quando vengo qui, ho chiesto, ho detto che numero ha questo tavolino, mi hanno detto il numero 1, benissimo, allora quando verrò a Vienna voglio sempre questo, sedermi qui e spero un giorno di non venirci da solo, di venirci accompagnato. E poi il bagno tutto rosso faceva pensare, chiedo scusa, a un locale a luci rosse, ma non lo era affatto, ecco tutte luci soffuse eccetera, molto molto viennese, molto, molto particolare, bene. Sui generis. Ma ti convince di più l'amicizia mm-hmm. o l'amore? A me, leggendoti, mm-hmm. mi sembra che ti convinca di più l'amicizia. Grazie, sì, sì. È vero? Sono riuscito allora a trasmettere quello, sì, l'amicizia, perché l'amore è... Cos'è l'amore? L'amore è anche un istantaneo, un momento, poi passa, voglio dire, ci si abitua a stare con qualcuno, però la fase più bella è la fase del corteggiamento, dell'infatuazione, che però hanno vita breve. L'amicizia occorre tempo per edificarla, però può durare tutta la vita. E poi l'amicizia si può smussare tutti i giorni, perfezionare come uno scultore che cura la realizzazione della sua statua, invece l'amore no. L'amore è come un elettrocardiogramma che va, è molto oscillante, molto vacilla, non è stabile assolutamente. Ma per questo è anche amore, no? Sì. Però io dico sempre ho amato mia madre, mio padre, il mio criceto che mi manca ancora, mi sembra strano, no, forse in un'altra e nella seconda metà delle istantanee che non sono state ancora pubblicate, il mio criceto, si possono amare i fratelli, però i compagni, le compagne. Veniamo proprio a una poesia intitolata, alla poesia, vedi? Mi sono scivolato in una, ho detto io poesia, ma non è una poesia ovviamente, intitolata Mio padre. Mio padre era un tipo speciale, era un prototipo più unico che raro, mio padre. O lo amavi al 100% o lo odiavi al 100%. Mio padre. Non esistevano vie di mezzo con lui, con mio padre. Non credeva alle malattie e pensava che mai si sarebbe estinto, mio padre. Ma una notte si è addormentato e chissà in quale irraggiungibile punto dell'universo si è diretto, mio padre. Nel bene e nel male amava sorprendere, mio padre. E la maglia di lana verde a rombi colorati di 15 anni fa, se non oltre, fu una delle sue incalcolabili sorprese, mio padre. Indossandola mi sembra di avere addosso lui, mio padre, col suo incommensurabile affetto. Sì. Mio padre era veramente speciale, penso più unico che raro, come ho scritto, o lo si amava al 100% o lo si odiava al 100%. Era un viver innamorato della vita, sempre gli piaceva la buona compagnia, mangiare bene, non credeva, pensava che... io sono convinto di questo, lui credeva di vivere in eterno e invece poi si è addormentato una sera e se n'è andato all'età di 59 anni. E mi ricordo, era in un letto di ospedale per un controllo, a lui piacevano tanto i fuochi d'artificio, quella notte c'erano i fuochi d'artificio perché iniziavano le feste patronali nel mio paese da dove provengo, però era già morto. L'hanno trovato riverso, se n'era già andato. E, lui era, io lo chiamavo, era come un uovo di Pasqua, cioè aveva sempre, conteneva sempre una sorpresa, però queste sorprese erano sempre, diciamo, era molto estemporaneo, non riuscivo mai a, come dire, adesso mi viene il termine in tedesco, unberechenbar, incalcolabile, ecco. Però sicuramente sono contento di quello che mi ha dato, perché quando dava, dava immensamente. Mm. tu vai spesso a Vienna. Sì. Spesso ti telefono, sono convinto che sei qua, e invece sei a Vienna. Fai proprio il pendolare con Vienna. Sì. Vienna è una città che, non so, non ho capito bene, perché la citi in tanti tuoi scritti qui, a volte la ami, a volte non la ami. È addirittura, così? Mi sembra, sì. Ti sembra di aver colto questo? Sì, non è così? Ma io penso di avere sempre lo stesso rapporto con Vienna, cioè? E diciamo è un legame sicuramente intimo, morboso, erotico con la città proprio. Questa maledetta sindrome curativa di sedersi nei caffè viennesi. Sì, sì. Questo fatto di sedersi nei caffè viennesi, di osservare e eleganti reparti di psichiatria in cui gli specchi avvolgenti risucchiano la vita di ognuno denigrandola senza sconti. Addirittura fingono di ascoltare i pazienti deliranti che ivi dimorano senza l'assillo del tempo. Caspita. Sì, il bello dei caffè viennesi è proprio questo, che ci si può sedere e sorseggiare un cappuccino senza, ecco, appunto l'assilo del tempo, senza dover dire adesso devo andare, oppure senza che il cameriere venga e dica vuoi bere ancora qualcosa? No, lui ti serve una volta e poi se ne hai bisogno lo devi chiamare tu, altrimenti io li chiamo biotopi. Biotopi, sì, in cui ritirarsi, in cui diciamo poter conformarsi con la propria sagoma, la propria pelle. Una settimana fa mi hai mandato una foto di un ambiente di un caffè viennese e mi hai detto che questo mi rispecchia. Sì. E mi sono guardato e riguardato per capire dove mi rispecchia. Allora, ti rispecchiava perché era così... adesso non mi fraintendere, asburgico, però era tutto serioso. Beh, e nello la stesso giacca tempo oggi è in sintonia. A parte la giacca, è un caffè elegante, vecchio, datato, ma molto elegante. Proprio come sei tu, elegante nei tuoi modi, nel modo di fare, diciamo, senza voler... Ecco, sempre gentile, sì, garbato. Sì, sì, l'abbiamo ovviamente provata più volte questa battuta per, proprio per ricevere i complimenti. Spero che gli altri soci si associno. Ecco. Però ci sono anche delle pagine un po' cupe, no? Cioè, a volte trovo una vena proprio pessimistica. E soprattutto proprio anche sullo scrivere, perché fin dall'inizio tu dici esistono mille modi di suicidarsi, tra cui suicidarsi sulla carta. Questo allora, ce lo devi spiegare. Sì, questo lo devo spiegare ogni volta, che cosa vuol dire. La scrittura, purtroppo, chi decide, adesso uso un termine pontigiano, di nuotare, di voler imparare a nuotare, la scrittura crea a un certo punto dipendenza. Crea dipendenza perché bisogna leggere tantissimo, bisogna conoscere tante tecniche scrittorie, scritturali, e voler soltanto esprimere, come dicevi tu prima, giocare soltanto, non dico con la pancia, di pancia, ecco, non basta, non basta. E perché un suicidio la scrittura? Perché chi decide di autoeliminarsi, cosa fa? Pianifica questo piano di autoeliminazione, di autodistruzione, lentamente, in maniera precisa, meticolosa, senza farsi accorgere. E lo scrittore fa la stessa cosa. Lo scrittore dipende da questo piano non di autoeliminazione, ma di scrittura, di concepimento. Ecco. E quindi l'ho paragonato al suicidio. Ma io nell'associazione scrittori vedo tanto narcisismo più che suicidio. Scusami, non ti seguo. Nell'associazione scrittori vedo tanto narcisismo, insomma, nello scrittore è sempre insito, è un'insidia permanente, no? Il narcisismo, pensare di essere al centro un po' di tutto. Però da questo tuo modo di interpretare la scrittura mi sembra che non sia così. No, perché ripeto, io volevo sottolineare proprio la dipendenza. Il suicida dipende dal suo piano di eliminazione. Lo scrittore dipende dalla scrittura a un certo punto. Oscar Wilde, che poi Pontigia lo cita, diceva: lo scrittore è colui che impiega una mattinata per apporre una virgola e un pomeriggio per toglierla. Quindi questa è dipendenza e maniacalità. E amore anche per la scrittura. E amore. Anche se dopo, questo mi sta succedendo, quando rileggiamo quello che scriviamo dopo che abbiamo pubblicato, diciamo, ah, l'avessi scritto in un altro modo, perché questo avverbio non l'ho messo dopo? Oppure perché non ce l'ho messo per niente? Infatti Pontigia diceva, sono felice, non è sono molto felice. E lui optava per sono felice, perché dire sono molto felice vuol dire togliere efficacia all'aggettivo positivo, felice. Ma tu sei d'accordo con questa frase di Cesare Pavese che dice: la letteratura è difesa contro le offese della vita? Sì, sicuramente sì. Quindi è anche una difesa, voglio dire, non è solo un suicidio. E una corazza, è una torre d'avorio in cui rinchiudersi e, diciamo, guardarsi dentro e poi trasmettere quello che siamo riusciti, se ci siamo riusciti, a elaborare. Questo tuo libro, con tutti questi spazi, come ho fatto vedere, c'è tanto spazio libero. Quello che viene chiamato il paratesto, no? E che è parte del testo stesso, in un certo senso. Ma l'hai fatto volutamente, sì, questo? Sì, volutamente, perché volevo risaltare certe parole, certi termini. Ecco perché. Ma è anche piacevole da leggere, no? Perché uno dice, ho letto due righe e ho letto una pagina intera, insomma. Quindi, ah, però, ho letto 150 pagine, tra l'altro qui sono in italiano e in tedesco, perché è un libro perfettamente bilingue, e quindi se sono in 126, tutto, mi sembra, quindi se 126, poco più di 60 in poco ogni più lingua. Di 60, poi dove ci sono due righe soltanto, uno proprio dice, presto a leggerlo, insomma. Presto a leggerlo dal punto di vista del numero delle pagine, ma siccome le frasi sono intense, tocca star lì un po' di tempo per pensare a quella frase lì. Quindi non te lo porterai mai in spiaggia? O non lo metti sul comodino? Preferisci leggere Ken Follett? Quei romanzoni storici. Allora, non ho l'orologio qui, non vorrei perdere. Che ore sono? Sì, siamo... Sì, sì, sì. Allora, lasciamo un po' al pubblico le domande. Spazio al pubblico. Che bello. Allora, si è parlato di lingue, quindi italiano e tedesco. Però il dialetto, che ruolo, cioè per esempio l'idea di, insomma, i poeti o gli scrittori sono sempre il dialetto, proprio la lingua materna, no? prima lingua. Quindi un domani, progetti, una produzione o cose del genere, insomma. Questa era la domanda. Dialetto abruzzese? Sì, il dialetto suo, lui è abruzzese, quindi non so, Pescara, dove che... Ma grazie per l'input, però sinceramente attualmente non... mi sono posto il problema di... La fatica di prendersi un dottorato di lingua. Però grazie, conosco uno scrittore, conosco uno scrittore abruzzese che scrive solo in abruzzese e, diciamo, molto conosciuto, proprio perché il dialetto, contrariamente alle lingue standard e ufficiali, a volte ha questa capacità di trasmettere, ha più incisività, più pregnanza. Però, ripeto, attualmente non ho nulla in cantiere, per cantiere intendo nulla in mente, se ho risposto alla curiosità. Ovviamente istantanee sempre, no? Quella è una disegnata. Istantanee. Che tra l'altro c'è una diversità, no? Tra il tedesco e l'italiano anche nella traduzione del titolo. Istantanee, sì, sì. Schnappschüsse. Schnappschüsse in tedesco, sì. Dà proprio l'idea dell'istantaneità, dell'immediatezza. Schnapp è anche quell'app sul computer, no? Per fare foto istantanee, così come ce l'hai a disposizione. Perché qui c'è per esempio questa frase: il cancro lo puoi prevenire, l'invidia non la puoi curare. Ti piace questa frase, insomma? Diciamo, chi ha un po' di anni sempre, penso che chi ha i capelli bianchi ha vissuto tanti momenti di invidia nella sua vita e quindi ritrova in questa frase molti momenti suoi. Vissuti e confermati? Direi di sì. Sì, l'invidia a volte è tremenda, insomma, però bisogna anche... Scusate, l'invidia attiva o passiva? Oh, l'invidia attiva o passiva? Ma l'invidia in generale comunque, come dicevo prima, l'invidia si trasmette in tanti modi. A volte è silente, non ha verbo, però si coglie bene da certi atteggiamenti, da certe espressioni. Ecco, non è diretta, non è immediata, mi riferivo a quella. Okay. Altre domande o altre considerazioni da parte tua? Anch'io avrei una domanda. Prego. La poesia breve, che lascia molto spazio appunto anche alla pagina bianca, ricorda un po' la poesia di Giuseppe Ungaretti. C'è forse riferimento anche a questo poeta? Io ho pensato a lui, però lui scrive prevalentemente poesie di guerra. Sì. Diciamo, magari qui si coglie qualche guerra interiore, però non guerre, non trincee. Non soldati, però ho pensato a lui e soprattutto all'uso di una parola per esprimere, ecco, un universo di significati. C'è questa poesia bellissima, Fratelli, che è perennemente, squisitamente attuale. Va bene, si può collocare in qualsiasi momento. E ci sono pochissime parole proprio per, non ve lo devo dire io, esprimere questo senso di fratellanza, di legame, questa drammaticità del campo di battaglia. Però, ripeto, io ho pensato a lui proprio per la pregnanza semantica, però il contesto in cui opera è totalmente diverso. La mia è una domanda probabilmente indiscreta, un po' privata. Volevo chiederle come si sente lei oggi in questa sua nuova Heimat, se ce l'ha. Primo, se ce l'ha, e come si sente in questa nuova Heimat? Allora, come faccio a rispondere? Quanto tempo per rispondere? Dunque, io sto bene qui, mi sento bene, però sicuramente non mi manca niente. Non posso lamentarmi di nulla, però dire che sono a casa, questo no. Però quando vado a casa mi sento un estraneo anche a casa. Cioè, io torno in Abruzzo, vado al mare e mi viene facile pensare al Danubio, e nel mio immaginario dico: qui nell'Adriatico sfocia il Danubio. I miei colleghi di geografia, se mi sentissero, direbbero: ma tu dovresti essere radiato dall'albo degli insegnanti per dire queste castronate. E poi vado sul Danubio e dico: il Danubio arriverà nell'Adriatico, pensando a casa. Il Sud Tirolo, diciamo, si pone a metà tra l'Abruzzo e Vienna. Però lei parlava di questa Heimat, sì, locale, provinciale del Sud Tirolo. Sì, come detto, sto bene, sto benissimo, è un posto incantevole, sicuramente non è casa mia, però mi manca quando non ci sono. Mi manca quando non ci sono. Allora, la risposta qual è? Almeno per me una Heimat vera e propria non ce l'ho. Non ce l'ho. E forse il fatto di viaggiare, di spostarmi, eccetera, è magari proprio questo, voler cercarne una. Allora, tu stai scrivendo un nuovo libro. Sì, adesso sto lavorando a un romanzo. A un romanzo. Mm-hmm. Mm-hmm. Puoi dire qualcosa? Sì, è un romanzo, ci sono due figure, due amici simbioticamente legati da questa amicizia che Aristotele chiamava virtuosa. Lui parlava di tre tipi di amicizia, Aristotele. Questa sembrerebbe un'amicizia perfetta all'apparenza, ma non lo è, perché sono perfettamente agli antipodi. Uno detesta Vienna, uno ama Vienna, uno scappa da Vienna, uno la rincorre, eccetera. E c'è due, una donna... Due anime di te, in pratica. Come? Una scissione. Uno si chiama Enrico, uno si chiama Maximilian, e poi c'è una donna in mezzo che è stata rapita. Ah. Ecco. Però di più non vorrei aggiungere. Beh, certo, certo. Bene, allora ti aspettiamo. E la prossima. Mm-hmm. Bene, se non ci sono altre domande, il libro è lì a disposizione, costa 10 euro e, come abbiamo visto, è un libro molto respiroso, si legge appunto volentieri anche per questi spazi aperti, ma soprattutto per queste piccole frasi anche molto incisive. Grazie della vostra partecipazione, grazie Nico, grazie della Italo, tua presentazione, grazie, e grazie anche alla biblioteca che grazie. Ci ha dato questa bella opportunità. Davvero, buona serata, grazie. E buon rientro.